G. Ascolta il testo. Il teatro greco di Siracusa, costruito nella sua prima fase nel V secolo a.C., non era originariamente in forma di semicerchio. Il teatro acquistò la sua forma attuale tra il 238 e il 215 a.C., con una veduta panoramica sul porto e sull'isola di Ortigia, caratteristica tipica dei teatri greci. Il teatro subì varie modifiche in epoca romana. Il settore delle gradinate riservate agli spettatori assunse una forma semicircolare, tipica dei teatri romani, anziché a ferro di cavallo come nei teatri greci. Data tradizionale della prima colonizzazione greca è il 735 a.C., l'anno in cui i greci fondarono la prima colonia a Naxos, sulla spiaggia di Taormina. Fra le varie colonie greche mancò il senso dell'unità. Le città erano rivali tra loro, spinte l'una contro l'altra da contrastanti interessi economici e politici. Nonostante questo, ai greci di Sicilia si deve l'introduzione del bronzo per la monetazione degli spiccioli. Fu proprio in Sicilia che si coniarono per la prima volta, attorno al 400 a.C., le prime monete in bronzo.